cazzo è la libertà? Tanta storia alle spalle, solo omertà. Tu la cerchi, io la cerco oggi. La cercheremo insieme anche domani. Vacca boia, non si trova la risposta. Forse per saperla dobbiamo essere più schiavi. Ma poi scopriamo che per una fottuta sera l'abbiamo vista passare e l'abbiamo persa. È la voglia che ti viene e poi scivola via dal cuore. Per un momento ti senti libero di gustare la libertà. Ma che cazzo è questa libertà? L'hai sentita, ma non sai se è lei. La trovi per perderla, la perdi per trovarla. E la troverai nelle donne e nel lusso, nella birra a fiumi, nella caverna dei pub, nelle scopate gratis, nelle canzoni punk, nelle idee fantastiche, nei film scaricati, nella nostalgia di qualche amico pazzoide. È la voglia che ti viene e poi scivola via dal cuore. Per un momento ti senti libero di gustare la libertà. Ti scivola via dal cuore, non andare via, e invece è già volata su altra gente per scivolare via ancora, come una stronza che ti illude e poi cambia idea, cambia idea. E questa è la libertà.